L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati in quest'altra nuova vigilia per la nostra trasmissione. Dopo quella di Natale che abbiamo trascorso insieme, ci spetta anche quella di Capodanno, ovviamente. Vigilia di cenone, per il quale non avremo ormai modo e tempo di controllare le etichette di tutti i prodotti che porteremo in tavola, ma con l'anno nuovo potremo farlo, grazie anche ai consigli di Sabina Rubini, biologa dello studio ABR, esperta di sicurezza alimentare, che abbiamo riinvitato per questa puntata. Ben ritrovata, bentornata con noi. Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora, partiamo da un presupposto che comunque il regolamento che ormai conosciamo tutti, l'1169 del 2011, nasce con questo intento: trasparenza, chiarezza per il consumatore. Questo era un obiettivo addirittura dell'anno 2000 con il famoso libro bianco, dal quale veramente sono poi scaturiti i regolamenti che oggi dettano le norme sulla sicurezza alimentare, e quindi tra questi poi c'è stato anche lo sviluppo di questo regolamento sull'etichettatura, quindi già questo la dice lunga. Consideriamo che, come sappiamo, questo regolamento è stato costituito nel 2011, in realtà poi è entrato in vigore nel 2014, in un certo senso in tre tappe. La prima è il 13 dicembre 2014, dopodiché altre due tappe sono state 1 gennaio con alcuni requisiti specifici per le carni macinate, e poi l'ultima proprio qualche giorno fa, il 13 dicembre 2016. Quindi questo è stato il completamento, che naturalmente però è sempre perfettibile. Le cose sì, sono in effetti cambiate su diversi punti di vista, perché diciamo che linee guida importanti sono state alcune diciture obbligatorie, per esempio la trasparenza in che cosa doveva essere anche messa in evidenza, sul fatto che molte volte queste etichette fossero anche molto piccole, quindi in realtà il consumatore tanto spesso sono piccole. Sì, e devo dire che all'inizio la Comunità Europea in realtà aveva chiesto anche una dimensione leggermente più grande, poi c'è stato un aggiustamento, però oggi, a meno che non siano dei volumi talmente piccoli che purtroppo richiedono un'etichettatura piccola, sono visibili, infatti questo doveva essere ben chiaro. Poi altri cambiamenti sono stati ad esempio per alimenti surgelati e congelati, che poi venivano scongelati, allora c'è stato l'obbligo di dire va riportato il termine alimento scongelato perché non ci potessero essere eventuali frodi alimentari, e così via. Per esempio, se il quantitativo di acqua è molto basso all'interno di un alimento, non riportare il fatto che ci sia acqua, per arrivare poi a quelle comunicazioni, diciamo così, che oggi sono diventate poi anche riconosciute un po' da tutti i consumatori, e che sono le famose etichette nutrizionali, gli allergeni, gli oli e grassi vegetali. Questi diciamo che sono stati poi dei motori che hanno scatenato dei meccanismi, se vogliamo usare questo termine, anche sociale. Eh sì, infatti. Tra l'altro ne abbiamo un caso molto vicino, diciamo, nel tempo, e non ancora chiuso, no? Sì. La lettura delle etichette poi ci ha portato anche a essere critici rispetto ad alcuni alimenti o componenti di alimenti che noi utilizziamo. La ribellione, come dicevi tu, la ribellione sociale, ad esempio, contro l'olio di palma, no? Sì, esatto. Alla fine molte aziende hanno preferito eliminare proprio l'ingrediente dalle loro produzioni. Sì, altre quindi aziende, tagliando la testa al toro, perché poi alla fine abbiamo tolto il buono e il cattivo tutto insieme. Sì, e però diciamo questo è stato per l'olio di palma, ciò non vuol dire che poi in effetti gli stessi processi produttivi non vengono utilizzati per altri tipi di oli vegetali. Che poi comunque infatti l'olio di palma deve essere sostituito da qualcos'altro, sì, quindi rischiamo sì. Comunque... No, sempre che esattamente, infatti il punto è proprio quello, perché poi alla fine magari ci si è tanto concentrati sull'olio di palma e non ci si è resi conto che all'interno dell'elenco degli ingredienti molte volte noi abbiamo invece scritti oli parzialmente idrogenati oppure oli idrogenati, che sono praticamente degli oli, anche questi vegetali, sottoposti anch'essi a delle attività produttive ad alte temperature che anche in questo caso trasformano la molecola originaria, e purtroppo devo usare un termine chimico, da cis a trans nella posizione di alcuni idrogeni, e questo dà vita a sostanze che sono comunque per la salute contraddistinte come sostanze che possono portare a malattie cardiovascolari. E anche in questo senso diciamo che la comunità europea ha poi rilasciato una relazione. Quindi, come dire, abbiamo eliminato uno, ma non è detto che i pericoli comunque non ci siano. Ed è per quello che bisogna sempre leggere molto bene. Molto bene, sapendo anche che cosa, diciamo, che patologie sono le nostre, quindi cercando attraverso l'etichetta di scegliere i cibi più adatti, meno pericolosi, più sani a seconda, perché poi non siamo tutti uguali. Sì, esattamente. Infatti in questo subentra la tabella nutrizionale, no? Perché con queste indicazioni obbligatorie che sono, oltre diciamo, l'energia calorica, ma che sono i grassi, compresi acidi grassi saturi, oppure i carboidrati, compresi gli zuccheri semplici, le proteine e il sale, allora già il consumatore può orientarsi. In realtà quella nota che la Comunità Europea ha rilasciato sui grassi acidi trans veniva un po' legata a questo argomento della tabella nutrizionale, perché poi la Comunità Europea ha identificato la tabella dicendo: poi valutiamo se in realtà c'è anche da inserire la presenza degli acidi grassi trans o meno. E questo poi in realtà è stata una relazione sì rilasciata, che però non ha portato ancora bene ad non tanto al chiarimento delle sostanze, perché queste comunque si sa che se consumate in elevata quantità portano a malattie cardiovascolari, quindi questo è conclamato. Si sta ancora valutando se inserirle in tabella oppure se inserirle in maniera tale che il consumatore possa avere evidenza e possa decidere di consumarle. Certo è che alcuni paesi europei hanno comunque adottato delle linee personali in cui agiscono anche a volte sulle aziende, quindi chiedono alle aziende di produrre, garantendo che poi il quantitativo di questi grassi acidi trans, che vengono indicati come TFA in inglese, sarebbe trans fatty acid, e alla fine siano bassi quantitativamente sul prodotto finale. Quindi questo già, se magari si riuscisse a trovare una linea comune per tutti, non sarebbe male, ecco. Si responsabilizzerebbero anche in effetti, no, le aziende. Certo. Ah, certo, sicuramente. Allora ti interrompo perché ci sono un altro paio di questioni che vorrei segnalare agli ascoltatori. La prima è: non leggete l'etichetta nutrizionale per quel che riguarda le calorie quando si tratta di panettoni e pandori, visto che siamo in quel periodo lì, però leggetela, perché anche per questi prodotti ci sono, no, degli obblighi particolari. Sì. Quali sono? Allora, prima di tutto, proprio per la definizione di panettoni e pandori, come per altre due o tre categorie di prodotti tipici, diciamo che questi sono normati, quindi per poter chiamarli così, hanno, diciamo, dei prodotti di eccellenza, degli ingredienti di eccellenza, che sono farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria A, che sottolineiamo perché normalmente sono quelle per il consumo, mentre per le aziende agroalimentari normalmente si utilizzano quelle di categoria B. Quindi cosa vuol dire questo? Che già a monte è escluso che possano essere utilizzati degli ovoprodotti, quindi ancora più scadenti. Poi c'è l'obbligo di utilizzare materia butirica, che sarebbe il burro. Quindi che cosa vuol dire questo? Che a monte non possono essere utilizzati oli vegetali, quindi non possiamo correre il rischio che ci siano, diciamo, almeno nei panettoni, nei pandori classici. Perché poi che cosa succede? Che la problematica può nascere invece quando sono farciti o ricoperti, perché lì purtroppo nelle farciture e nelle ricoperture, quindi l'attenzione, diciamo, ai nostri ascoltatori, è soprattutto leggere l'elenco degli ingredienti, che riguarda soprattutto le farciture, perché anche lì potremmo trovare una serie di additivi, oli vegetali un po' più scadenti oppure una serie di coloranti, perché naturalmente queste farciture poi, essendo degli alimenti non deperibili, quindi che possono stare a temperatura ambiente, però devono mantenere le loro caratteristiche organolettiche. E quindi come le vogliamo mantenere? Per forza utilizzando additivi e quant'altro. Quindi in questo bisogna stare molto attenti. E purtroppo qual è il problema? Che il trend va verso il ricoperto e verso il farcito, proprio le aziende ormai l'hanno riscontrato rispetto al classico, e quindi purtroppo nascono ogni giorno dei panettoni, che devo dire, al tiramisù, alla crema pasticcera, alla crema al cioccolato, e quindi purtroppo tendiamo a consumare. Ma si possono comunque chiamare panettoni e pandori? Allora, in quel caso sì, perché sì, la prima parte, cioè la materia prima, ecco, la materia prima deve garantire il 50% dell'utilizzo degli ingredienti che la norma ci obbliga ad utilizzare. Quindi in questo caso loro cosa fanno? La base del panettone pandoro preparano con quei criteri, e poi c'è la farcitura. Diverso invece, per esempio, è un po' il caso del gluten free, perché in quel caso oggi, cioè da pochissimo, oggi inteso come da poco tempo, c'è stata una sorta di deroga alla normativa di base. Perché? Perché naturalmente, essendo gluten free, persone che sono al glutine, no? Intolleranti, non si può utilizzare la farina di frumento, quindi già a monte andiamo ad eliminare l'ingrediente base. Però alla fine si è deciso di effettuare questa deroga, dicendo che anche se vengono utilizzate farine differenti, si è fatta una sorta di forzatura per non, come dire, escludere, no? E come per non far sentire in maniera differente persone che purtroppo a causa di questa intolleranza, certo, sì, hanno, non possono. Però se fosse una farina integrale o di riso, questa non farebbe parte della ricetta originale, quindi non farei un panettone in quel caso. No, per esempio anche noi sentiamo dire panettoni fatti con l'olio extravergine di oliva, non va bene, non può essere chiamato panettone. In quel caso deve essere chiamato, che ne so, dolce di Natale, prodotto da forno natalizio, quindi deve essere trovata una di infatti. E ultimamente c'è anche la moda dei panettoni vegani. Però che cosa succede? Che non potrebbero mai essere chiamati panettoni, perché mancano di base le uova e il burro, perché sono naturalmente prodotti che i consumatori del vegano non assumerebbero mai, e quindi in quel caso la dicitura non può essere di pandoro o panettone, quindi bisogna trovare una dicitura che sia simile o che induca a capire il consumatore, che naturalmente poi c'è la grafica comunque, no? Il marketing in questo ci aiuta, però a livello di dicitura in quel caso non potrebbe mai essere utilizzata la nostra classicità di panettone e pandoro. Lì, perché anche quella del veganesimo è una scelta, mentre sì, l'intolleranza è un'altra questione di salute, sì, no? Forse sì, anche lì il discrimine sta su quello. Sì, assolutamente sì, tant'è che al riguardo, diciamo, c'è stata da alcuni punti di vista un po' di polemica, però quello che tu dici è verissimo, lì è una scelta, invece in quell'altro caso purtroppo una scelta obbligata dalla malattia, dall'intolleranza, dalla patologia, ecco. Allora, io ti ringrazio, Sabina Rubini, esperta di sicurezza alimentare dello studio ABR, biologa, non l'abbiamo detto all'inizio, diciamo alla fine. Grazie e buone vacanze, buon inizio anno, e ci risentiamo nel 2017, spero. Grazie a tutti voi, buone feste e sì, con piacere. Un saluto a tutti. Facciamo una pausa e si torna insieme per parlare di un altro tema delle ultime settimane, ovvero l'inquinamento atmosferico e le sue conseguenze sulla salute dei bambini. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. L'altro pianeta. Di nuovo un buon pomeriggio da Laura Bettini. In questa seconda parte riprendiamo i risultati di uno studio sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. Di questo studio si è parlato molto su diversi quotidiani con toni piuttosto allarmistici, scrivendo che provoca anche mutazioni del DNA. In realtà abbiamo scoperto, parlandone con gli autori di questo studio, che le cose non sono così preoccupanti, ma certo che non sono nemmeno rassicuranti, e quindi che non vanno trascurate tutte le misure possibili per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle nostre città, in particolare che sono quelle più colpite da questo problema. Il progetto di ricerca finanziato nell'ambito dei programmi europei LIFE si chiama MAPEC, lo trovate su internet proprio con questo nome, è stato coordinato dalla Università degli Studi di Brescia e realizzato con le università di Perugia, Pisa, Lecce e Torino. Cosa è stato fatto? Sono stati reclutati in tutte e cinque le città diverse centinaia di bambini tra i 6 e gli 8 anni. Sono stati poi effettuati dei prelievi della loro mucosa orale, mettendo in relazione questi prelievi con un campione dell'aria che i bambini respiravano il giorno del prelievo. Ci siamo fatti spiegare però meglio questa ricerca e i suoi risultati da Anna Laura Carducci, responsabile, tra l'altro, della comunicazione sanitaria nel Dipartimento di Biologia della Università di Pisa. Lo scopo era quello individuare degli indicatori precoci di effetto sul DNA, cioè riuscire a vedere se nelle cellule dei bambini si presentassero degli effetti riconducibili all'inquinamento da poter utilizzare come marcatori precoci. Cioè, noi sappiamo tutti che l'inquinamento provoca tumori, cardiopatie, altre malattie respiratorie, quindi lo sappiamo, e questo è stato messo in relazione con studi epidemiologici. Quello che volevamo trovare erano dei marcatori precoci di effetto per poter fare degli studi più approfonditi poi anche sulle città e evidenziare appunto degli effetti che non sono ancora malattie, ma che possono indicare un aumentato rischio, non a livello individuale. Su questo vorrei essere piuttosto chiara. Cioè, questi effetti che noi misuriamo sono reversibili a livello della singola persona, ma la loro entità e numerosità a livello collettivo può indicare un aumentato rischio di questo tipo di problemi nelle popolazioni indagate. Quindi è un diciamo, a livello statistico, diciamo, grande, ecco, voi avete, non sì, è che si noi... riguarda quel singolo bambino, no. Ma può indicare... come un gruppo, diciamo, poi dopo si... A livello di gruppo, questo aumento di frequenza rispetto a varie variabili che poi abbiamo studiato, e poi magari ne parliamo in maniera più precisa, l'aumento statistico di questo effetto indica che c'è un aumento di rischio a livello di popolazione. Quindi è utile questo tipo di studio per dire attenzione, perché misuriamo degli effetti che non sono ancora patologia, ma che potrebbero portare poi a patologia. Perfetto. Il fatto poi di avere scelto cinque città anche diverse l'una dall'altra, per latitudine, certo, per dimensione, per tipo di inquinamento, credo che possa aver dato al vostro studio altri spunti di ricerca, o comunque per poter poi dopo proseguire questa ricerca di cui lei parlava. Sì, io mi auguro che possiamo proseguire. Per ora noi abbiamo lo studio più grande mai fatto sui bambini con questo tipo di ricerca. Quindi abbiamo oltre 1200 bambini, e quindi complessivamente il nostro campione è molto grande, e questo ci ha permesso di trovare alcune relazioni, quindi relazioni con la presenza di alcuni inquinanti, nell'area che avevamo comunque analizzato sia noi che utilizzando i dati delle centraline ARPAT o ARPA nelle altre regioni. Poi abbiamo delle relazioni, quindi sia col dato ambientale di inquinamento dell'aria, sia con quello che riguarda alcuni stili di vita. Per esempio c'è un aumento di questi effetti nei bambini sovrappeso e nei bambini che sono esposti a fumo passivo, mentre una diminuzione nei bambini che hanno un'alimentazione corretta, intendendo come alimentazione corretta vicina alla dieta mediterranea. Quindi con più frutta, più verdura, con sì, quindi più meno grassi. Certo, questo tipo di alimentazione sembrerebbe, dai nostri risultati, che ripeto riguardano 1200 bambini, oltre 1200 bambini, sembrerebbe appunto essere protettiva nei confronti di questi effetti. Riguardo all'inquinamento, cosa è il risultato associato? Beh, sicuramente il particolato, particolato PM10, quello classico, il particolato PM05, quello molto fine, ultra fine, e anche la presenza di sostanze nel particolato che sono gli idrocarburi policiclici aromatici, cosiddetti IPA, i nitro-IPA, che da sempre si sa che sono, da sempre, insomma da molto tempo, via diciamo, si sa che sono correlati a effetti sul DNA. Quindi questi, cioè, li avete chiaramente messi in relazione quel tipo di mutazione, quindi? Sì, non è una mutazione. Ora, su questo, infatti, siccome sono usciti anche dei titoli che dicono un bambino su due ha mutazioni, no? In realtà quello che abbiamo visto sulle cellule dei bambini non sono mutazioni, ma sono dei danni che si manifestano con la presenza di un micronucleo o di più micronuclei. Che cosa sono questi? Sono dei pezzettini di DNA che si staccano dalla massa centrale e quindi appaiono alla osservazione microscopica delle cellule come qualche cosa che sta fuori del nucleo e che sembra un piccolo nucleo. Quindi è un danno evidenziato in questo modo, non è una mutazione. Per misurare le mutazioni abbiamo altri sistemi, ma non è questo. Questo è un effetto, sicuramente possiamo definirlo un effetto sul DNA, un danno sul DNA, ma non possiamo definirlo una mutazione. Ok, quindi vabbè, quindi eliminiamo la mutazione. Sì, no, perché sennò può dare origine. Certo. E abbiamo fatto degli altri test sull'aria, però su cellule in vitro. Quindi abbiamo preso l'aria e il particolato, lo abbiamo estratto, quelle parti che volevamo analizzare e l'abbiamo provato a mettere su delle cellule, su delle colture cellulari batteriche o umane. Ecco, in quel caso, soprattutto nel caso delle colture batteriche, abbiamo visto che potevano esserci degli effetti mutageni, ma verificati su batteri, non sulle cellule dei bambini. Allora, questi danni sui bambini sono, diciamo, reversibili. Sì. Il problema è la loro ripetizione nel tempo e gli effetti che sì, possono avere nel passare degli anni. Sì, questi sono spie di qualcosa che accade, ma non sono di per sé un effetto patologico, diciamo così. Però cosa succede? Che sono reversibili e noi abbiamo infatti testato gli stessi bambini in due periodi dell'anno, d'inverno e a primavera. Erano gli stessi, la frequenza di questi micronuclei fra l'inverno e la primavera si è molto ridotta. Diciamo, avevamo un 52% di bambini con almeno un micronucleo in inverno, sono diventati 35% a primavera. Quindi se erano gli stessi bambini è evidente che questi effetti sono scomparsi dopo in altre condizioni ambientali. E questo è un dato abbastanza interessante dello studio, che dimostra appunto anche l'importanza dell'inquinamento provocato per esempio dal riscaldamento in inverno. No? In inverno aumentano certe sostanze ed aumentano anche gli effetti sulle cellule dei bambini. Chiarissimo. Come l'avete valutato questo? Cos'era, un tampone? Cosa hanno fatto questi bambini? Che esame hanno fatto? Hanno fatto una specie di spazzolamento con uno spazzolino da denti per bambini sulla guancia del bambino. Poi il bambino veniva prelevato questo materiale, messo in un idoneo tampone e poi analizzato. Ok, quindi era un esame semplice. Era una cosa assolutamente non invasiva, sì. Avevamo prima chiesto l'autorizzazione non solo ai genitori ma anche agli stessi bambini, erano stati preparati sia con delle spiegazioni fatte alle scuole, ai genitori e poi ai bambini stessi. Un'altra curiosità riguardava il 52%, 35% che mi diceva prima, era sul totale dei bambini, quindi voi non avete una divisione per città? Allora, oppure c'è? Abbiamo anche una. Ora, quelle percentuali che le ho detto sono quelle riportate dagli articoli. Cosa vuol dire 52%? 52% o 35% in estate avevano almeno un micronucleo. Ora, per trovare un micronucleo noi esaminiamo. Sono state esaminate 1000 cellule per bambino, quindi almeno un micronucleo non è un tasso elevato. La frequenza dei micronuclei per bambino era inferiore a 1 mediamente, quindi c'erano una metà dei bambini che ne avevano 1, ma mediamente non si arrivava sopra a 0,4-0,44 per bambino. Questo dato non è poi così enorme, ma esiste. Ecco, quindi da una parte non bisogna essere allarmisti, non bisogna dire un bambino su 2 ha mutazioni pensando alle cose così terroristiche, però bisogna dire che c'è un effetto dell'inquinamento, lo abbiamo rilevato. Certo. No, dicevo, invece tornando al discorso delle città, lì non c'è una differenziazione nello studio per città. Cioè, allora, c'è un effetto stagione, come dicevamo, e un effetto città che pone al primo posto per la presenza di micronuclei Brescia, al secondo Pisa, al terzo c'è Perugia, Torino e poi infine Lecce. Questo per quanto riguarda questi micronuclei di cui abbiamo parlato. Invece l'analisi dell'aria, che come abbiamo detto è stata fatta parallelamente per vedere gli effetti mutageni, per esempio, su delle cellule, quella ha un comportamento un po' diverso. Dovrebbe essere Torino, credo. Che è Torino, sì. Come vede, da un lato alcuni aspetti sono maggiori in una città, altri in un'altra, ma questo perché? Perché i campioni delle singole città sono non molto grandi, no? 200 bambini che poi con le perdite possono andare a finire a 180, no? Quindi per avere delle risposte più precise a livello di città sarebbe indispensabile allargare il campione e prolungare lo studio. Certo, no, noi abbiamo provato, abbiamo fatto un sacco di analisi statistiche. Però con questi numeri noi siamo di fronte a un esame molto sensibile, a delle cose molto sensibili, ma anche che per questo motivo possono avere una grande variabilità. Per cui trovare poi dei risultati con piccoli campioni diventa difficile. Professoressa, la ringrazio molto. L'ho rubato un sacco di tempo, ma insomma... È proprio uno scopo quello del progetto di divulgare il più possibile in maniera semplice e comprensibile a tutti. Grazie, auguri e a risentirci. Auguri allora. Anche a lei. Con questa intervista ci fermiamo, vi auguriamo davvero un buonissimo 2017, anche una buona conclusione di questo 2016. Ci diamo appuntamento la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Grazie per l'ascolto.